9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì 18 ottobre. La vicenda da cui partiamo oggi l'abbiamo vista rimbalzare con l'ottimo Marco Tulli la settimana scorsa su alcuni quotidiani locali italiani. Ci ha molto colpito e abbiamo deciso partire questa settimana con una riflessione dedicata a che cosa? A questo singolare caso, che però al di là del caso in sé di cui parliamo all'inizio ci consente poi di aprire il nostro focus, di mettere la nostra lente del microscopio su uno dei temi più classici del ritardo della produttività italiana e più classici dei paradossi della rappresentanza italiana. Stiamo parlando degli ordini professionali. Di che cosa si tratta? La vicenda da cui partiamo. E qualche giorno fa l'abbiamo vista sulla stampa veneta, perché è la vicenda di alcune farmacie di Belluno nei cui confronti l'ordine ha adottato delle sanzioni, perché in buona sostanza queste farmacie tengono aperto sempre l'esercizio, e l'ordine dice no, neanche per idea, voi dovete chiudere, abbassate la tessera cinesca, perché altrimenti qua beccate le sanzioni. Allora, un paese nel quale chi vuole lavorare si organizza per lavorare ha come sanzionatore l'ordine professionale a cui appartiene, è o no un paradosso? La mia risposta a questa domanda, la mia almeno, è assolutamente sì. Allora, iniziamo però con Ernesto Riva, che è esattamente uno dei farmacisti stacanovisti che a Belluno è colpito dalla sanzione. Io lo saluto innanzitutto. Buongiorno Riva. Buongiorno. Ecco, questa vicenda che io ho sintetizzato solo in due parole, ce la racconta meglio lei? Sì, ve la racconto. Beh, innanzitutto non sono uno stacanovista, perché le tariffe le faccio lo stesso, benché io tenga aperto l'esercizio. E anzi, questo mi permette poi di organizzarmi le tariffe quando credo, e soprattutto di organizzarle e pianificarle anche per i dipendenti, i tre farmacisti che ho come... Certo, perché insomma organizzate i turni dei farmacisti che stanno... Insomma, la farmacia è aperta, non è che lei è lì che non ha altro da fare nella vita. Esattamente. È sempre aperta. Allora, il problema è questo, che esiste una legge regionale della Regione Veneto, che obbliga le farmacie a chiudere per ferie. Secondo me è una legge o impostata male, o non so, forse avranno anche sbagliato a farla. È una legge regionale del 94 che dice che ci vuole un periodo annuale complessivo di ferie non inferiore a 15 giorni. Ecco, e secondo me questo obbligo, è lì sul concetto dell'obbligo che probabilmente si sono sbagliati, perché bastava mettere che era facoltativa, la cosa era facoltativa, insomma, no? E allora non cambiava assolutamente niente. Io questa legge cominciai a rispettarla molti anni fa, sono 40 anni che faccio questo mestiere circa, però mi rendevo conto che creava un disagio alla popolazione del mio paese. Il paese si chiama Castion e è a 3 chilometri circa dalla città di Belluno. Però ci sono delle difficoltà da parte della popolazione per recarsi in città, e comunque alla conclusione in cui sono arrivato dopo un po' di anni che rispettavo questa legge era che creavo un disservizio per la popolazione, cioè la popolazione che va, che si reca nei tre ambulatori del paese e poi con la ricetta viene in farmacia perché gli venga dispensato il farmaco. Sì. Anche decisi di iniziare un percorso di richiesta di deroga. Per fortuna le leggi, seppur fatte male, e io sono convinto che questa sia stata fatta male, solo per uno scambio di parola, è facoltativo e obbligatorio secondo me, ti danno la possibilità di usufruire di una deroga. Ora, riguardo a questa legge, c'è una commissione del territoriale che si occupa degli orari e delle ferie, che ha la possibilità di concedere delle deroghe in situazioni particolari. Cosa che io, questa richiesta io l'ho fatta per 3 anni di seguito, e per 3 anni di seguito mi è stata rifiutata. Ma questa commissione è fatta dall'ordine? questa commissione non è fatta dall'ordine, ma è fatta dal servizio territoriale, sì, della URSS. Non, francamente non so da quali persone è formata. Ci sono sicuramente dei farmacisti iscritti all'ordine che fanno parte di questa commissione, ma francamente non so chi siano. Non so neanche quali sono i parametri ai quali loro fanno riferimento per valutare e per concedere le deroghe, perché qui in provincia di Belluno di deroghe ne vengono concesse direi un certo numero. La legge del 64-94 prevede come criterio per l'eccezione all'obbligo di ferie complessive non inferiore a 15 giorni, prevede come criterio di eccezione quello di farmacie localizzate in zone che presentino gravi difficoltà di comunicazione e che hanno facoltà, previa autorizzazione da parte dell'USL del sindaco, di rinunciare a questo periodo di chiusura obbligatorio o a limitarlo a 7 giorni consecutivi in un anno. Quindi il criterio di deroga indicato nella legge è quello delle difficoltà di comunicazione. Esattamente, è cosa che io ho fatto chiedendo deroga totale, denunciando difficoltà da parte della popolazione di recarsi in città durante quel periodo di ferie. Richiesta di deroga che io ho fatto regolarmente ogni anno da 3 anni a questa parte al presidente della ULS e al sindaco. Il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, esatto, di questa città. E devo dire che il sindaco ogni anno, ad ogni domanda, sono 3 anni che la faccio, mi risponde sempre ufficialmente che concedendomi un nulla osta, il nulla osta alla mia richiesta di deroga. E qui viene il paradosso. Per quale ragione la commissione mi ha rifiutato questo nulla osta, benché ci sia ogni anno il parere favorevole del sindaco? E il fatto che il sindaco sia l'autorità sanitaria, diciamo che mi ha dato, mi sono in qualche modo sentito autorizzato a non chiudere, e sono 3 anni che non chiudo. Come risposta alla mia ultima richiesta di deroga mi è giunto un procedimento disciplinare che adesso starà sul tavolo del procuratore della Repubblica, dove procedimento disciplinare da parte dell'ordine questa volta? Da parte dell'ordine. Perché parte l'ordine? Dell'ordine. Ma perché l'ordine invece che di deontologia e di titoli per esercitare la professione, cioè, si occupa degli orari di apertura? Non credo sia così. Probabilmente l'ordine è stato sollecitato a far rispettare le regole. E su questo io... Da qualche iscritto. Posso essere anche d'accordo, per carità. No, a me sembra che l'ordine serva per altre cose, perché altrimenti significa che, per così dire, si occupa di diminuire la concorrenza, non so come dire, di garantirla solo agli iscritti. Questa è un'interpretazione. Voglio dire, far rispettare le regole va bene, ma prima di tutto la prima regola è quella del buon senso. Voglio dire, se alcune leggi sono difficili da mettere in atto o da rispettare, per fortuna esistono dei sistemi per applicare il buon senso, nel nostro caso la deroga, e risolvere il problema. Allora, aspetti un secondo, io la fermo un secondo, perché poi torniamo meglio nel dettaglio della vicenda, perché avremo con noi anche il presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti, dopo che lei ha descritto il caso nei dettagli precisamente, questa minaccia di sanzioni che quindi arriva con, anzi c'è un richiamo ufficiale, ma minaccia di sanzioni ulteriori da parte dell'ordine, dopo aver spiegato la particolarità, lo dico chi è in ascolto e chi non si intende molto di legislazione della professione farmaceutica nel nostro paese, delle farmacie, scusatemi, le legislazioni sono diverse da regione a regione, quindi questo è il caso del Veneto, perché in Veneto questo è il criterio, ma il servizio è organizzato con criteri diversi da regione a regione. Ma il punto è: perché l'ordine deve farsi vigile ergersi a tutela delle condizioni di apertura dell'esercizio della farmacia e quindi mettersi in mezzo a dire questo sì, questo no? In altre parole, perché spetta a lui la disciplina delle sanzioni in una materia, quella degli orari di apertura, che ha pieno titolo a che fare con la concorrenza, l'offerta di un servizio, perché è una delle modalità decisive attraverso le quali il proprietario gestore di una farmacia decide di mettere l'organizzazione dei suoi turni col suo personale eccetera eccetera, dicendo io resto sempre aperto. Invece arriva qualcuno, l'ordine, che lo sanziona dicendo no, tu chiudi. A me viene molto da ridere. Però chiediamo a un esperto di questa materia, il presidente dell'antitrust Antonio Catricalà, che è con noi per 10 minuti, lo ringrazio molto. Io devo invitare tutti voi che siete in ascolto a leggere con grande gusto, perché è scritto anche con una mano molto molto fluente, non è un testo tecnico solo per esperti di diritto della concorrenza, è in uscita per l'editore Rubettino, che è un editore benemerito per noi mercatisti, un libro di Antonio Catricalà che si chiama Zavorre d'Italia, e voi vedrete come in alcuni capitoli, proprio sulla questione degli ordini e via via poi le banche eccetera eccetera, il presidente dell'antitrust racconta la sua esperienza di anni alla guida dell'autorità, ma le racconta casi alla mano e con una certa bonomia intransigente nel fare riflettere noi tutti su quanto avremmo da guadagnare da un paese in cui ci fosse più concorrenza. E il primo capitolo di questo libro, Zavorre d'Italia, è proprio dedicato a una delle materie più spinose negli anni che abbiamo alle nostre spalle, cioè quella della liberalizzazione delle farmacie, che avvenne nel 2006. Ma cominciamo, dopo aver salutato Antonio Catricalà e averlo ringraziato, chiedendogli del caso in questione, che ha sentito per sommi capi richiamare da Ernesto Riva della farmacia di Belluno. Che impressione trae, presidente? Ma grazie a lei anche per la presentazione. Le devo dire che questo caso può essere attenzionato dall'antitrust, nel senso che potrebbe corrispondere a un'intesa restrittiva della concorrenza all'intervento dell'ordine, che noi consideriamo come un'associazione di imprese. Devo anche precisare che esiste una corrente di pensiero economica che ritiene che gli ordini debbano essere aboliti. Non è questa la posizione dell'antitrust nazionale. Quella è la mia, ma non è quella dell'antitrust. quella dell'antitrust nazionale è più moderata, però noi riteniamo che gli ordini debbano essere democratizzati, cioè debbano avere non solo componenti della categoria al proprio interno, ma anche componenti della società civile. Se così fosse, gli ordini avrebbero la possibilità di svolgere il loro mestiere, che è un mestiere di formazione e di miglioramento per i loro associati e di garanzia della tutela dell'etica professionale, quindi sostanzialmente la tutela del codice deontologico. Noi abbiamo avuto casi analoghi che sono poi finiti bene, per la verità, in antitrust, quasi tutti. Uno era proprio dell'ordine dei veterinari che aveva sanzionato una veterinaria che faceva delle tariffe più basse, una sorta di cooperativa, di mutua, ecco, per gli animali, e queste tariffe ovviamente mettevano in difficoltà altri colleghi che non volevano scendere sotto il minimo tariffario, e devo dire che finì bene la avvertenza, perché prima ancora della legge Bersani, che abolì l'obbligatorietà dei minimi tariffari, l'ordine accettò la derogabilità verso il basso di questi prezzi, perché per noi sono dei prezzi sostanzialmente. L'altro aspetto che ci interessa molto di questa vicenda è quella dell'apertura, degli orari di apertura agli esercizi commerciali, e lei lo ricordava bene, questa è una materia di tipo regionale e noi ne abbiamo viste un po' di tutti i colori nella nostra esperienza. Ricordiamo il caso in cui furono sanzionati nel periodo natalizio, durante le ferie, le vacanze di Natale, alcuni negozietti, non dico grandi, grandi complessi, che stavano vicino a Fontana di Trevi nella giornata di domenica e nelle giornate di Natale, e praticamente facevano fare degli acquisti ai turisti. I vigili urbani implacabili li multarono perché erano aperti in una giornata festiva. Ma se andiamo a vedere un po' in giro per l'Italia, la situazione non si modifica. Lei consideri che a Firenze, per esempio, è vietato tenere aperti i dispensatori automatici di cibi caldi e di bevande calde e durante la notte. Come dire, non puoi andare al bar a prendere un caffè, non puoi comprare un panino da nessuna parte, non puoi comprartelo nemmeno presso l'apparecchio, perché pure l'apparecchio si deve riposare. Oh, ma Presidente, faccia capire una cosa. Abbiamo una volta stabilito che le diverse leggi regionali in materia di esercizi e di farmacie, voglio dire, stabiliscono anche con precisione, a volte analitica, gli orari di apertura, i turni di ferie e così via. Che cosa impedisce poi di impugnare queste norme? Perché è evidente che questi criteri rispondono solo all'auto-organizzazione di chi ce l'ha già una farmacia. Insomma, sono delle barriere, per così dire. Certo, sono delle barriere, e di recente la Corte Costituzionale è intervenuta in più occasioni per sanzionare di legittimità alcune leggi regionali perché contrastanti con il principio che finalmente si riconosce essere entrato nella nostra Costituzione di tutela della concorrenza. Ma la sanzione di incostituzionalità, quindi la caduta della legge, avviene perché la regione sostanzialmente invade un campo riservato allo Stato, e quindi invade una competenza statale che è la concorrenza, perché purtroppo tutta la disciplina, l'intera disciplina economica e del commercio, invece è devoluta alle regioni. Pensi, noi abbiamo fatto uno studio per cui nelle regioni dove c'è maggiore liberalizzazione del commercio c'è minore inflazione, mezzo punto in meno di inflazione. Guardi, è una cosa importante, perché praticamente significa che laddove c'è più libertà poi alla fine i prezzi scendono. Ora io ringrazio molto il Presidente della Titras. Vi ricordo Zavorre d'Italia, il libro di Rubettino di Antonio Catricalà, perché veramente leggetelo e capirete come questa cosa, che sembra lontana dalla vostra vita di tutti i giorni, oltre che inflazione più bassa, cioè prezzi più bassi, produce, quando viene perseguita la concorrenza, anche se lei degli interessi di chi è già corporazione in esercizio, estende la base produttiva, cioè ci sono più occupati, oltre a far abbassare i prezzi, abbassa i prezzi di tutto il processo intermedio, cioè degli input industriali all'interno del processo produttivo. Per questo si abbassano poi i prezzi alla fine, senza che le aziende ben organizzate ci debbano rimettere naturalmente utili e margini. E poi soprattutto consente un confronto tra prezzi più trasparenti. Se abbiamo alle spalle alcuni anni di scontro in materia proprio di farmacie per le liberalizzazioni di quelle che poi sono diventate le parafarmacie per i farmaci senza obbligo di prescrizione, ed è sembrato da parte dei farmacisti che chissà che cosa si stesse facendo, dati alla mano si va a vedere dove è stato possibile farlo grazie alla grande distribuzione, e anche lì con molte regioni che hanno messo molti paletti tra le ruote, molti paletti nel tentativo di dire ai farmacisti: vabbè, ci pensiamo noi a garantirvi. Però laddove il servizio è stato organizzato meglio, gli effetti benefici in termini di prezzo, in termini di capillarità della distribuzione, eccetera eccetera, ci sono stati. E gli effetti paventati di chissà quale lesione ai diritti e ai lavoratori delle farmacie non ci sono stati, tranne il fatto che anche lì è un processo molto discusso, perché chi ha il potere di opporsi tenta di farlo in tutti i modi. I politici prestano orecchio, prestano molto orecchio. Allora, leggete Zavorre d'Italia, grazie al Presidente Antonio Catricalà. Adesso pubblicità e poi torniamo in concreto sulla vicenda segnalataci da Ernesto Riva, per capire a quel punto col Presidente dell'Ordine: ma perché l'Ordine deve dire vi chiudo e vi sanziono? Che c'entra l'Ordine con tutto questo? Eccoci tornati in studio, ci occupiamo di queste tre farmacie, di Belluno, Luigi Coran, Giovanni Chimenti ed Ernesto Riva, che è qui con noi, che ci ha spiegato il caso. Da tre anni chiedono, rispetto agli estremi della legge regionale veneta, la legge 64 del 94, che prescrive 15 giorni obbligatori di chiusura di ferie per le farmacie, chiedono la deroga, e la deroga viene respinta puntualmente dalla prevista commissione della USL e del sindaco, che dà nulla osta ma poi se ne lava le mani, perché il sindaco di Belluno, Antonio Parada, di fronte al fatto che l'ordine li sanziona e gli dice no, voi chiudete, il sindaco di Belluno, Antonio Parada, dice, si è detto dispiaciuto ma impotente, perché dice testualmente, così recitano le sue dichiarazioni ai giornali: se l'ordine dei farmacisti ha deciso in questa maniera non posso farci nulla, la sua autonomia è insindacabile. Allora abbiamo con noi Andrea Mandelli, che è il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. Buongiorno presidente. Buongiorno. Mandelli, buongiorno. E io le chiedo, nella prima metà con Catricalà, il presidente dell'antitrust, e con Ernesto Riva, che resta collegato con noi, ci siamo chiesti: ma perché l'ordine deve occuparsi di dire su quali sono gli orari di apertura e non limitarsi alla deontologia, ai titoli per l'esercizio della professione, eccetera, e intervenire invece in una materia che ha a che vedere inequivocabilmente con la concorrenza, dicendo a Riva e ai colleghi delle altre due farmacie: ci fate la cortesia, voi chiudete, chiaramente interpretando, mi pare di aver capito, perché qualcuno ha chiesto l'intervento dell'ordine, gli altri che dicono questi qua facciamoli chiudere perché altrimenti si beccano i clienti. Allora, io innanzitutto preliminarmente, buongiorno a tutti, vedo un po' di confusione anche nelle sue concezioni di fondo. Lei giustamente fa riferimento a tutte le normative del mercato, ma qui siamo di fronte a un ragionamento diverso, cioè noi dobbiamo garantire un servizio alla popolazione. E chiudendo? Quindi, se posso finire, se no fa lei e ci vediamo un'altra volta. Guardi, io sono pagato per fare le domande e lei non si arrabbi, perché no, la questione per cui in Italia concetto, la questione per cui in Italia chiunque fa una domanda, qualcun altro gli dice mi vai sulla voce, allora me ne vado, se crede non aver niente da dire se ne vada, altrimenti risponde. No, però mi faccia rispondere, giusto? Me lo consentirà questo, no? Presidente, ecco. Io se faccio una domanda non è per non farla parlare, comunque vada avanti, non la interrompo più, allora, si figuri. Allora, il ragionamento è questo: noi siamo di fronte alla necessità di garantire un servizio. La Corte Costituzionale del 2003, quindi non nel 1613, dimostra come la teoria e la pratica della legge italiana voglia garantire un servizio ai cittadini con una ordinata successione degli orari di apertura e di chiusura delle farmacie. Per questo molte leggi regionali, come lei ricorda poi nell'autonomia piena di ogni singola regione, danno all'ordine quello che è il motivo per cui l'ordine è stato costituito. L'ordine è stato costituito a difesa dei cittadini. Allora perché ci occupiamo di orari? Proprio perché bisogna, per certe regioni, certe leggi regionali chiedono all'ordine di farsi garante del diritto di salute dei cittadini e quindi di rendere una forma organizzata di orari, turni e ferie. Questo è il motivo per cui ci si occupa. Nella fattispecie però io vorrei anche dire un'altra faccenda: noi stiamo parlando di salute e non di pere e di mele, quindi la tensione di tutti è quella di dare un sistema organizzato, e l'Italia, grazie a Dio, che se ne dica, ha uno dei migliori sistemi organizzativi del mondo, per cui una ordinata scansione di orari, turni e ferie è a vantaggio del cittadino. Cioè cosa vuol dire? Che quando il servizio può essere anche non economico, alla organizzazione pianificata dello Stato non interessa, interessa dare servizio al cittadino, ed è per questo che c'è una serie di orari, una serie di chiusure, di aperture. Poi che ogni regione abbia la possibilità di fare turni e ferie, io questo sono un presidente nazionale che coordina l'attività degli ordini e non l'attività delle regioni, non posso farci nulla. È evidente che la legge Veneto prevede questa faccenda e così vanno. Però voglio anche dire un'altra cosa: l'ordine non è che sanziona in base alla volontà del presidente che si alza una mattina e quindi decide di andare contro il dottor Riva. L'ordine ha sanzionato perché l'ASL ha denunciato il farmacista per non aver mantenuto quella corretta scansione che l'ASL ha organizzato per i turni di quella zona. Quindi non abbiamo un presidente che si alza al mattino e decide di intervenire perché non gli piace. C'è una precisa denuncia: il presidente è un ente di diritto pubblico. Il presidente di un ordine presiede un ente di diritto pubblico e quindi ha un obbligo di ufficio a muoversi rispetto a denunce, se no c'è omissione di atti d'ufficio, e lei mi insegna cosa succede all'omissione di atti d'ufficio, e da questo discerne questa faccenda. Per quanto riguarda il sindaco ha un potere sanitario totale: se il sindaco fa l'ordinanza la farmacia rimane aperta, il resto sono tutte chiacchiere. Presidente, siccome non ho capito due cose: primo, se ha l'ordine dopo la segnalazione che viene dalla commissione delle ha un ordine, ha una, scusi, una propria facoltà discrezionale. Da quello che ho capito, lei dice no, perché altrimenti incorriamo in una omissione di atti d'ufficio. Se io denuncio, se io ho una denuncia di un cittadino e non do corso, essendo presidente di un ente di diritto pubblico non economico, ho una denuncia per omissione di atti d'ufficio. Va bene, allora, primo, l'ordine interviene, ma solo perché... Ma l'ordine è intervenuto rispetto a una segnalazione precisa di qualcuno. Sì, infatti, però io non continuo, però questo è il secondo punto, Presidente, a chiedere, siccome stiamo ragionando di un servizio pubblico ben organizzato, questo sarà legato al dottore internazionale, ha ragione, però nella garanzia di offerta, secondo criteri che hanno a che vedere con il territorio, le caratteristiche anche demografiche, ma in tutto questo, perché la chiusura di qualche esercizio potrebbe assolvere meglio alla finalità di un servizio meglio organizzato? Perché la Corte Costituzionale nel 2003 lo spiega in maniera evidente. Cioè, non è l'interesse del singolo farmacista a dare il servizio al cittadino. Ma l'intero sistema. Lo dice la Corte Costituzionale, e io credo che lei, come me, creda che la Corte Costituzionale sia una realtà assolutamente indiscutibile e imprescindibile, perché sennò qua ognuno fa quello che vuole. Io credo che la Corte Costituzionale sia un valore importante per l'Italia e credo che quello che dice nel 2003, cioè che non, a lei non gli interessa un tubo del singolo farmacista che voglia aprire o voglia chiudere. Tra parentesi, mi sembra che alcuni di queste persone abbiano delle provvedimenti giudiziari perché hanno chiuso in giornate in cui dovevano essere aperte, a testimonianza che uno non può fare quello che vuole, aprire quando fa comodo e chiudere quando non fa comodo. Bisogna avere un servizio ordinato che dia il sistema Stato a questo paese. Allora, la Corte Costituzionale, torno al punto, dice: a me non mi interessa l'esigenza del singolo, siccome ci sono delle realtà che possono essere più o meno disagiate, la farmacia si organizzi per dare il servizio al di là dell'economia. Quindi il problema è che noi tutti insieme nella rete diamo un servizio al cittadino, non nella singola volontà di apertura o di chiusura, perché è chiaro che se io fossi aperto quando conviene o quando non conviene avremmo dei disservizi enormi per il cittadino. Invece questa scansione ordinata fa sì che sempre il cittadino italiano trovi una farmacia aperta, e questo è un fatto di cui ogni cittadino italiano dovrebbe andare orgoglioso. Presidente, qua stiamo parlando del caso in cui il cittadino la trova chiusa, non aperta. Comunque, per carità, io non voglio insolentire, perché qui l'idea è che in questo paese chiunque mi cita una sentenza ha ragione. Io sono per un sistema liberalizzato, capito? In cui ci sono certo i doveri generali che riguardano il fatto che non è ciascuno apre e chiude quando vuole, perché le farmacie presiedono a un servizio le cui finalità sono pubbliche. Ma se non c'è una scansione ordinata... Ma la scansione obbligata è qua, con chi si organizza nel proprio esercizio, con i propri dipendenti, i propri medici che stanno di turno lì, i propri farmacisti di turno, e gli si dice: no, tu devi chiudere. E io non capisco in questo, mi dispiace. È la lesione, a mio giudizio, di un diritto. Lei dice alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale lo fa in una sentenza interpretativa di un caso ad hoc. La legislazione italiana è distinta per regioni. È possibile che io dica, signor Presidente, ora sto parlando io, che in alcune regioni la normativa è organizzata per consentire all'ordine di tenere più chiuso il servizio e non più aperto? Io la penso così. Grazie, Presidente. Ora vediamo un po' come la pensano alcuni ascoltatori. Alessandro D'Arieti. Santo Dio, bisogna sempre alzare la voce con chi altrimenti dice che lui è Dio perché è la legge. La legge è fatta per essere anche discussa, lo dico a tutti i presidenti degli ordini in ascolto. Alessandro D'Arieti, prego. Buongiorno, dottor Giannino. Io sono perfettamente d'accordo con lei, ma l'argomentare del presidente Mandelli si riferisce al fatto che la legislazione attuale esclude il concetto di concorrenza nel settore farmacia. Ah, ecco, appunto. Capisce? È questo il paradigma, cioè il settore più vergognoso per quanto riguarda il protezionismo è quello delle farmacie, un sistema in cui tu prendi una licenza con un concorso e va ab aeternum agli eredi, ma è qualcosa di scandaloso, cioè è un sistema che va rovesciato come un calzino. A fare il rivoluzionario ancora più di me, sennò qua veniamo praticamente sconfessati da tutti gli amici e fidanzate farmaciste che abbiamo e avete in ascolto. Quindi comunque ha ragione, anche secondo me è un sistema che, diciamo, è improntato a criteri non esattamente di apertura alla concorrenza. Ma nel caso particolare, Alessandro D'Arieti, che pensa? Ma guardi, io penso che ci sono 16.000 farmacisti collaboratori che attualmente sono assunti, lo sa con quale contratto? Col contratto del commercio. I farmacisti collaboratori prendono 1.300 euro al mese pur essendo laureati e pur essendo costretti a fare i corsi di aggiornamento a 1.300 euro al mese, ce ne sono 16.000 in Italia, liberalizziamo totalmente il settore, questi 16.000 farmacisti aprono 16.000 farmacie, dottor Giannino, il servizio migliora del 3.000%, questo è il concetto. Punto, non ce n'è, il resto sono chiacchiere. Grazie Alessandro, e qui adesso io ho scatenato i miei fan che sono tutti per la concorrenza, ma poi i farmacisti ci picchiano. C'è Franco? Pronto Franco? Buongiorno Giannino. Buongiorno. Oscar Giannino, buongiorno a tutti. Io voglio denunciare un caso, sono anch'io per la concorrenza, perché ci sono molti farmacisti, i miei si sono laureati a 45 anni, non ce la voglio di studiare, guadagno talmente altri soldi che gli anche fastidio quando entro in farmacia, però e c'è un principio secondo me della distribuzione del reddito che è un indicatore dello sviluppo di un paese, e purtroppo in Italia, i dati della Banca d'Italia dimostrano questo, ma non voglio andare fuori tema. Voglio denunciare un caso preciso, c'è in Bassa Sabina, in particolar modo a Passo Corese, dove il farmacista si è, non so se i suoi figli o la moglie, di fatto comprata la parafarmacia, cioè fatta la legge e trovato l'inganno, viene meno il principio della concorrenza. Mi domando, ma questa è una cosa normale o ne è presa in giro? No, vabbè, ma se, scusi, se nella stessa famiglia si organizzano e oltre alla farmacia mettono anche la parafarmacia per l'offerta di farmaci senza obbligo di prescrizione, non possiamo entrare nei limiti della libertà di attività economica e imprenditoriale di una famiglia, per così dire. Quindi da quel punto di vista io non ci troverei niente a recepire, sempre che abbia capito bene. Ora andiamo sulle informazioni sulla circolazione stradale, poi riprendiamo altre telefonate e il commento finale di Ernesto Riva, che abbiamo tenuto in apertura. Beh, è giusto tornare da lui a sentire bene che cosa pensa di quello che gli hanno detto il presidente dell'antitrust, e da me contrastato con un eccesso di durezza, molti ascoltatori mi accusano di essere un pasdaran, dal presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti. Pubblicità, anzi non pubblicità, informazione stradale. Eccoci tornati in studio, sentiamo ancora un paio di ascoltatori. Giovanna che ci chiama da Roma. Prego Giovanna. Allora, buongiorno dottor Giannino. Io ho ascoltato con interesse, io sono una farmacista e lavoro anche al sindacato, sono una farmacista sindacalista. Io volevo, diciamo, perfettamente d'accordo con il primo ascoltatore, non sono 16.000 farmacisti, sono 16.000 le farmacie private, i farmacisti sono 60.000 su tutta Italia. Per quanto riguarda il problema degli orari, qua sul Lazio in qualche modo, diciamo, è stato superato, però il problema non è quello degli orari, il problema è la riforma strutturale di questo settore. Si parlava di parafarmacie, allora la riforma di Bersani è stata una finta liberalizzazione, perché ha dato, cioè teoricamente doveva dare la possibilità, diciamo, a persone come me di poter, diciamo, mettersi in commercio e fare concorrenza. Questo non è stato, perché la maggior parte delle volte queste parafarmacie fanno capo a società che sono, non so come dire, che fanno capo a titolari di farmacia, società che aprono e chiudono, società che licenziano in continuazione le persone. Io oggi sto andando in ufficio e ciò devo trattare il problema di 46 parafarmacisti che su tutta Italia, quelli che lavorano nei corner di Panorama, la società è sparita e sono tutti senza lavoro. Il problema è affrontare questa situazione delle farmacie, affrontando il discorso della pianta organica, affrontando il discorso, come posso dire, non del massimo delle, diciamo, dei utenti che devono stare su una farmacia, ma del minimo, quindi è la pianta organica. Quindi questo è un settore che va realmente liberalizzato. Grazie a Giovanna. Riccardo da Bologna, prego Riccardo. Buongiorno, io chiedevo una cosa, potrebbe andare bene anche come fa quel dottore Belluno che tiene sempre aperta la farmacia, ma tenendola sempre aperta chi ci lavora e quelli che ci lavorano prendono dei soldi in più perché fanno dei turni, ne prendono meno, sono sottopagati. Questo sentiremo da dottor Riva. Escludo che i suoi dipendenti e gli altri farmacisti lavorino più non pagati, come sempre pensate in Italia di questi tempi, perché questa è la propaganda della fiomba, se mi permette, che qua sono tutti degli schiavizzati in questo paese. Comunque risponderà Ernesto Riva tra pochissimo. Ancora l'ultima domanda breve o considerazione, Giovanni da Roma. Prego Giovanni. Sì, buongiorno, volevo cercare di spiegare come l'ho capito io l'opposizione del presidente Mandelli e spiegarla nel senso che lei diceva: ma come si può garantire miglior servizio tenendo chiuso qualcuno? Il problema è che bisogna pensare che ci sono più farmacie, qualcuna più grande, qualcuna più piccola, la quale più piccola riesce ad avvantaggiarsi un po' della chiusura della farmacia più grande e così a sostenere i propri turni che altrimenti diventerebbero insostenibili. Io la ringrazio Giovanni, lei mi ha spiegato appunto che serve a tenere chiuso per impedire che chi tiene aperto e si organizza pagando per questo possa beneficiarsi sui clienti. Lei lo ha detto chiaramente che è una misura anticoncorrenziale e di questo si tratta, spacciare per finalità di miglior servizio, chiusura di cartello anticoncorrenziale e piegare l'ordine a fare una specie di messo delle autorità locali, dovendosi occupare l'ordine della deontologia e non di chiusura anticoncorrenziale, per me che sono tagliente ma voglio più concorrenza perché convinto che tutti ne abbiano di che guadagnare, chi è in grado meglio di organizzare la propria farmacia e i cittadini, allora penso che il mio compito sia quello di far notare il paradosso di un ordine che finisce a occuparsi di cose di cui non si dovrebbe occupare e a impedire che chi si organizza meglio e vuole lavorare di più possa offrire apertamente in concorrenza con le altre farmacie al meglio i suoi servizi. Ma questo è il punto di vista mio, che come è noto sono un fanatico del mercato, quindi come tale una mosca bianca pericolosa in questo paese. Invece torniamo a Ernesto Oliva per fare concludere a lui, chiedendogli un'opinione su tutte le ciò che ha sentito il presidente dell'Antitrust, il presidente della Federazione degli Ordini, gli ascoltatori, e sentendo da lui che cosa faranno in futuro. Chiuderà insomma per le prossime ferie, dottor Riva? No, assolutamente no. E intanto vorrei rispondere all'ascoltatore precedente riguardo se tratto meglio o peggio i miei dipendenti. E direi che, l'ho detto anche prima, in questo modo riusciamo a pianificare meglio le ferie dei farmacisti, dei dipendenti. Cioè, se dovessi chiudere per ferie, dovrei obbligarli a chiudere per quelle due settimane che chiudo. Così, non chiudendo, possiamo ruotare le ferie dei dipendenti come meglio credono loro. Cioè riusciamo anche a pianificarle meglio. Per il resto, per tutte le cose che ho sentito, vorrei ritornare un po' al problema specifico, al merito del problema. Il ruolo degli ordini, io non ho nulla contro gli ordini professionali, anzi ritengo che abbiano una funzione di rispetto delle regole, ne ho fatto anche parte in passato. E però ritorno al concetto che avevo espresso prima, il buon senso, il far applicare le regole applicando il concetto del buon senso, e questo può essere fatto da un consiglio dell'ordine, perché ritorno al merito allo specifico problema mio. Voglio dire, dopo 40 anni, quasi 40 anni di professione, dove credo di essermi comportato rispettando le regole deontologiche, mi arriva un procedimento disciplinare dove sta scritto, procedimento che ora sta sopra il tavolo del Procuratore della Repubblica, dove c'è scritto che ho ricevuto una sanzione dove si riscontra un comportamento disdicevole al decoro professionale. Questa è per me una cosa inaccettabile. Io penso che queste parole finali di Ernesto Riva debbano fare riflettere tutti su come in questo paese a volte invece della promozione della tutela della deontologia di chi fa parte di un mestiere delicato, insomma di un ordine professionale delicato, finisce per autoribaltarsi. Cioè Ernesto Riva finisce per avere un timbro esattamente sulla questione deontologica, e perché? Perché teneva aperto. In questo paese lavorare in concorrenza è spesso un delitto peggiore di chi dice abbasso la serranda, e questa è la conclusione paradossale che è la mia sintesi, dicendo a Ernesto Riva e ad altri suoi colleghi di andare avanti. Questa legge regionale va cambiata e uniformata ad altre leggi regionali che sono meno, diciamo così, volte a tutelare chi la farmacia ce l'ha invece che l'offerta di un servizio da chi è in grado di offrirlo al meglio. Io ringrazio quindi Ernesto Riva per la sua testimonianza, ringrazio il presidente dell'Antitrust Antonio Catrecalari, ringrazio il presidente della Federazione degli Ordini Farmacisti Andrea Mandelli, col quale mi scuso perché mi pare che lui abbia inteso che io l'ho trattato male, non so perché, un po' di energia serve a fare anche più ascoltatori. Ringrazio voi tutti, ringrazio regia Carmelo Lauricella, redazione Alessandro Marco Turli e Franco Piantanida, grazie a cui come sente siamo andati in onda. La linea Generale Radio, appuntamento a domani.